Caesar Corps su Throwbass Network. Freddy Fresh, una bomba su Throwbass Network, la capito. Sabato è la storia. Prendete parte alla storia e sui libri ci sarà scritto. Five Years on Acid, Mike Inc. Ce lo sentiamo un altro po', mi sa che ho parlato un attimino presto, Yep. Mike Inc. sarà anche uno dei protagonisti dei sabati sera al Ministry of Sound, che Frog, Planetary Assault Systems. E parliamo di sabato, sabato la storia, la storia, la storia, la storia, la storia. È la... Analog 04.